dammi una donna così che l'assicuro ai loi. Preghierina, preghierina, fammela trovare, madonnina, madonnina, non mi abbandonare. Voglio una donna, donna, donna, donna, donna, con la donna, donna, donna. Voglio una donna, donna, donna, donna, donna, con la donna, donna, donna. Prendila te, la signorina Rambo, che si innamori di te, specie di canguro che fa l'amore a tempo, che fa la corsa all'oro, veloce come il lampo, tenera come un muro, padrona del futuro. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti da Stefano Dainese. Inizia questa puntata di Rock Wave in leggero ritardo, abbiamo un po' indugiato a tavola, ammettiamo subito la verità, e siamo qui in studio con un ospite speciale, come annunciato ormai da tempo anche sul nostro sito. Abbiamo con noi il leader, l'uomus al centro della band chiamata Down Pilot, lui è Paul Hiraga, a cui do il benvenuto. Welcome to our studio, Paul. It's a big pleasure to have you here tonight. My pleasure to be here. Lui questa sera ci parlerà della sua musica, ci parlerà della sua città che è Seattle, che è una scena musicale che, come probabilmente saprete, è estremamente ricca e interessante, e naturalmente ci suonerà dal vivo alcune canzoni, soprattutto tratte dal suo ultimo album che si intitola They Kind of Shine, che già da tempo è in rotazione sulle nostre frequenze. Allora, intanto ascoltiamoci subito una prima canzone da questo disco, si tratta di Rider, e dopodiché si tratta di In the Morning, piccolo errore, e dopodiché avremo modo di parlare con lui e di farci raccontare tante cose interessanti, anche suonare qualche canzone di persone che lui ha avuto la fortuna e il piacere di conoscere. Without ever Questa era In the Morning da Down Pilot. Il nostro regista Francesco Galante mi fa notare che, preso dall'emozione per la presenza di Paul Hiraga, non mi sono presentato. Sono Stefano Dainese, come tutti i lunedì sera con voi per Rock Wave, l'appuntamento col rock di Blu Radio Veneto. Allora, la prima cosa che volevo chiedere a Paul è una cosa che viene in mente un po' a tutti, ovvero sia il fatto che lui continua a chiamarsi Down Pilot, che era il nome di una band, però ormai è praticamente un solista. Allora voglio chiedergli un po' come mai questa decisione. You're still calling yourself Down Pilot, but I have the feeling that there's no such a band. So why did you keep the name? It's like Eels or Waterboys. Sure, it's like a brand name at this point. I mean, you know, I never really wanted it to be called Paul Hiraga. Sì, dice che a questo punto è un po' come un marchio di fabbrica, un marchio registrato, e lui non ha mai voluto presentarsi come Paul Hiraga, che è appunto il suo nome. Yeah. Pensi che funzioni meglio così? You think it works better this way? Yeah, sure. I mean, you know, there's a certain element of, I guess, mystique of having the band name and not just having it be one person. And it isn't just one person. I still have one of my original members with me from the very beginning, and there are other people involved. Si dice che c'è un qualcosa di un po' mistico nel tenere il nome della band, e poi c'è ancora uno dei membri originali che collabora con lui e che è ancora coinvolto in questa cosa. E forse la mia impressione è anche che lui voglia mantenere il suono di una band, anche se da solista. Adesso questo vado a chiedergli: is this because you want to sound like a band even when you're alone? You don't want to sound like a songwriter? Yeah, I guess, you know, when you say singer songwriter, it might just, you know, sound a bit cliche and stereotype you a bit. If you have a band name, it kind of broadens the opportunities. Yeah. Sì, è come pensavo, appunto, dice che tenendo il nome di una band ti tieni aperte più opportunità, e mentre invece quando sei un solista la gente si aspetta appunto il quello che noi in Italia chiamiamo cantautore, che in America chiamano singer-songwriter. Paul viene da Seattle, che è una città che ci ha dato tante emozioni musicali, e voglio chiedergli un po', perché adesso Seattle è un po' uscita, diciamo, dal hype, dal momento d'oro. Volevo chiedergli un po' com'è la situazione della città adesso, perché si è un po' persa di vista sulle riviste. Many years ago Seattle was the center of the world talking about music. Well, a certain type of music. Yes, a certain type of music. But how's the situation now? It's still a town rich of music and yeah, clubs. It's still a great music city. Luckily, after grunge passed, it returned to the way it used to be, which was a much more diverse musical city. Si dice che dopo che è passata la grande ondata del grunge, la città è tornata ad essere quello che era prima, ovvero sia un posto dove c'erano moltissime opportunità musicali e molta più varietà. A sentire lui sembra quasi che sia meglio adesso. It sounds like it's better now than in the grunge times. Well, I actually I moved to Seattle at the very height of grunge in 92, and the only music happening in clubs was grunge. You couldn't get a gig in the clubs unless you were grunge. Sì, ha detto che lui è ritornato a Seattle, dove era nato nel 92, quando era il momento d'oro, diciamo, di questa musica, e in tutti i club la musica era solo ed esclusivamente grunge, e se tu volevi sentire qualcos'altro o suonare qualcos'altro non avevi nessuna opportunità. Ci ascoltiamo adesso un altro brano di Down Pilot. Questo esce da un disco del 2001 che si intitola no, scusate, ho sbagliato, perché il disco ce l'ha il nostro regista in questo momento. Leaving Not Arriving. Esatto. Ok, scusatemi, ma avevo in mano il disco sbagliato, quindi adesso ci ascoltiamo questa canzone che ha annunciato il nostro Francesco. Ah, scusate, perché era un comunicato interno. Everyday Dream of the West, la canzone che ci ascoltiamo, è stato molto gentile il nostro regista a darmi il titolo. Rockway, l'onda del rock. Everyday Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Everyday Dream of the West era questo titolo, il titolo di questo brano tratto da Living Not Arriving, un disco del 2005 che è il penultimo album a nome Down Pilot. L'ultimo è The Kind of Shine, che abbiamo ascoltato prima un estratto, del quale adesso ascolteremo anche alcuni brani dal vivo. Paul è in Italia per un tour che purtroppo non è passato per Padova, se oggi era una giornata vuota, libera, quindi abbiamo avuto questa bella occasione di averlo ospite qui con noi. E adesso ci suonerà dal vivo una canzone. Can you introduce us the song that you are going to play? What kind of song is it? What is the meaning of the song? Well, I don't really like to ruin the fun for all the listeners by explaining away the songs, but I can say that the next song is called Chelsea Turnaround, and it's kind of about a I guess it would be a personal song about kind of a time of chaos in my life in a visit in New York City. Ah, questo brano si intitola Chelsea Turnaround ed è parla di un periodo in cui lui era abbastanza in confusione, diciamo, mentre visitava New York City. Allora il nome Chelsea viene proprio dal quartiere di New York, molto caratteristico anche, è un quartiere molto ricco di musica. Chelsea is a place that inspired many other musicians. Yeah, I mean, you've got the Chelsea Hotel and all that. I've been there. I mean, you know, there's a certain music to the word Chelsea and a legacy. Sì, la zona di Chelsea, dove c'è anche il Chelsea Hotel, è molto legata a storie di musica. Ci sono stati, è un albergo famoso di New York dove hanno soggiornato moltissimi musicisti dagli anni 60 ad oggi, e non solo, anche molti artisti di altre arti, tipo molti scrittori. Allora questa è Chelsea Turnaround, Paul Hiraga, Down Pilot, dal vivo a Blue Radio Veneto. Ok, Chelsea Turnaround, ecco. Lawmen around here don't care how you cross the street, so I drove into your living room in the crazy heat. Cannot keep it down for the neighbors. Can't get out of the house. And if this was your apartment, wouldn't leave for a month. To the sound, to the dust that's on the ground. All the days in all the ways to the Chelsea turn around. Seen it, never would have found until you check in. You can see it now as a stranger. To the light, to the sound, to death that's all around. All the days in all the ways to the Chelsea turn around. Ooh, to the Chelsea turn. Blue Radio. Una canzone incantevole, con non so, anche di nostalgico nella melodia, almeno questa è la mia impressione. There's something nostalgic about this song. This is my feeling when I heard it. It's like you are thinking about something that happened in the past. Yeah. Is this right? Yeah, yeah, sure. Okay, ci ho preso a quanto pare. Good job. you've done your work well. Thank you. Si dice che ci ho azzeccato, insomma, che in effetti la canzone parla di cose successe nel passato che vengono ricordate. Una cosa che ho sempre sentito nella musica di Paul, della sua band, The Down Pilot, è che c'è un'atmosfera di rilassatezza, di tranquillità, di pace. Always when I hear your records, I always feel the feeling of a relax and a peaceful feeling, like the music is something that makes you better. Come se la musica servisse solo per farti stare meglio. Compared to many other musicians, I mean also very good ones, that thinks about tragedies. Yeah. Molti musicisti hanno scritto dei bellissimi dischi, però parlano di cose negative. Lui ha sempre l'impressione di parlare di cose positive. You always sound positive. Hmm. Is it on purpose or is just your voice? Or I can't say really. That's your impression. Dice che è solo una mia impressione. Yeah, I mean, you know, the songs aren't really generally about. I can't say that they're always about the same thing, but there's certainly some subject matter that's not about tranquility and positiveness, but positivity. But I think that the way that I use the material and run it through a song is sort of a way of making peace with it or something like that. Sì, dice che molte volte scrive delle canzoni per cercare di rapacificarsi con certe situazioni, se ho ben capito. So you want to end up a memoir or to close a situation or writing a song about it. Am I right? Yeah, I suppose so. I mean, you know, there's always you're trying to understand a situation, maybe like Chelsea Turnaround. It was kind of, you know, a really difficult period episode for me, and you try to make something that fits into your life, and you want that obviously to be something that you can live with and that you want to live with. Ok, ho fatto l'esempio appunto di questa canzone Chelsea Turnaround. Dice che a volte lui scrive delle canzoni per cercare di capire un avvenimento, una cosa che gli era capitata. Appunto questa canzone in particolare era proprio un esempio, voleva essere una specie di chiusura ad una situazione, un momento particolarmente difficile che lui aveva vissuto a New York, appunto in quella zona, e scrivendoci una canzone ha voluto praticamente chiarirsi le idee. Adesso mi chiedo se era la stessa cosa anche quando la band aveva altri componenti. It was the same when there were other people together with you in the band, because this sounds very personal. Questo suona molto personale. And in una band ci sono varie persone che interagiscono. In a band there are other people, and this sounds like something that you do by yourself. And it was the same when you had a band. Yeah, but I think it's about the material more than who's playing it. I mean, if you're playing with musicians who you want to play with, they understand your material. I mean, you know, Miles Davis recorded Kind of Blue by walking into the studio and handing the musicians the tunes on the spot, and then, bam, they recorded it. You have to have an understanding with your musicians if you're going to play with them. Ah, sì. Si dice che se suoni con delle altre persone, se sei veramente una band, devi avere questo tipo di comunicazione con gli altri musicisti. Ha fatto l'esempio di Miles Davis, che realizzò l'album Kind of Blue, arrivando allo studio, nello studio, e dando ai musicisti gli spartiti, e lui sapeva che questi musicisti erano in comunicazione con lui e che quindi avrebbero avuto la stessa sensazione. E indubbiamente devo pensare che quando questa cosa funziona sia veramente una comunione emozionante di talenti. When it works, it must be a drag for everyone involved. It's like really being a team and works together like one thing. Yeah, yeah. You know when it works and when it doesn't, then you don't become a band anymore. Si dice quando non funziona più, non sei più una band, anche se io ho l'impressione che in molte band funzioni in maniera diversa. My idea is that no, not every band works like this. Yeah, every band's different. I don't want to mention Oasis, but you know, there are many bands that were. Yeah, I mean, bands are families, and no two families are the same. So there you go. Sì, giustamente dice, le band alla fine sono come delle famiglie, e non tutte le famiglie sono le stesse. Ci sono alcune famiglie che in effetti restano insieme, magari litigando, ma proprio i litigi fanno parte. Maybe sometimes. Hard discussions are part of the family and put the family together. Sì, me lo conferma questo. E allora ci ascoltiamo un altro brano da They Kind of Shine, l'ultimo album di Paul e di Down Pilot, si intitola Carry the Water. Smooth as stone. Rock Wave, l'onda del rock. Questa era Carry the Water, che è il brano di chiusura dell'ultimo album They Kind of Shine. E adesso stavo appunto parlando con Paul riguardo a questo disco, nel quale lui suona praticamente tutti gli strumenti. Ho appena scoperto una cosa interessante che gli chiedo di raccontare. I'm saying that I just found out that you're not you didn't start as a guitar player. Io sapevo che suonava la chitarra con la band e ero un po' stupito del fatto che in questo disco abbia suonato praticamente tutto, però lui è nato you took lessons from what age? I was I think 6 years old when I started piano. Ha cominciato a 6 anni a prendere lezioni di piano. Yeah, and then I took piano lessons for about 3 years, and then I was really bored with classical music, so I wanted to learn how to play drums, of course, because I was really into current music and rock music, and I wanted to play Led Zeppelin. Sì, hai detto che prendeva lezioni di piano, ma si era un po' stancato perché chiaramente si trattava di musica classica, e allora ha voluto passare a studiare la batteria perché voleva suonare i Led Zeppelin. Quindi la chitarra è stata poi una cosa successiva. Then you ended up playing guitar. Yeah, I mean, I think I realized that taking a guitar to a gig was a lot easier than carrying a whole drum set or a big heavy Fender Rhodes. Sì, ha detto che alla fine si è reso conto che se vuoi fare un concerto da qualche parte è molto più comodo portarsi una chitarra che non un'intera batteria o un pianoforte, un Fender Rhodes. Plus you can move around when you play guitar, which I was starting to feel like maybe I wanted to be a singer as well at that point. Sì, poi si è reso conto, insomma, che lui voleva essere un cantante, e quindi la chitarra è uno strumento che si sposa molto di più. Ma allora a quell'epoca non aveva ancora scoperto di avere una bella voce. You didn't realize that you had a great voice back then. I think I realized I had a pretty good voice, but I was really, really shy about it. And it took in high school. I was playing with some friends, and I was playing piano in the band. And they told me that I had to sing a song in front of the entire school, and I told them no way, but they insisted, and then I did, and that was my singing debut in front of my entire high school, which was about 1500 people. It's frightening. Ha detto che non si era reso conto, o meglio, sapeva di si era quasi reso conto di avere una buona voce, però si vergognava, aveva paura, parliamo di un'età molto giovane, e lo hanno convinto poi a fare il suo debutto come cantante davanti ai suoi compagni dell'intera scuola, quindi parliamo di circa 500 persone, deve essere stata 1500, sorry, quindi 1500 persone, e deve essere stato terrorizzato. You were terrified. I was terrified. Okay. Sì, detto, but it went well. Ha detto che è andata bene. I think if it hadn't gone well, I wouldn't be here today. Sì, ha detto, se fosse andata male quel giorno, probabilmente oggi non sarebbe qui. In effetti posso capire che una cosa del genere a, non so, 16 anni ti può veramente cambiare la vita. This is a change life moment when you're, I don't know, 16 or 17. Yeah, about 17. Yeah. Sì, intorno ai 17 anni. Fra l'altro, insomma, notoriamente è anche una cosa che aiuta con le ragazze. This helps a lot with girls, usually. Well, that's the reason why we do it, isn't it? Giustamente dice, è la ragione per cui lo facciamo, chiaramente. Giusto, I joke. Yeah, è uno scherzo, ma fino a un certo punto, insomma, so per esperienza, conoscendo parecchi musicisti, che la cosa funziona. So, are you going to play another song live? Yeah, I'm going to play All the Ghosts Will Walk. Ci suona un'altra canzone dal vivo. Questo brano si intitola All the Ghosts Will Walk, è il brano che noi abbiamo che apre il disco The Kind of Shine, un brano che noi abbiamo spinto molto qui su Blue Radio Veneto perché pensiamo sia una canzone straordinaria. And it's a song about a girl. È una canzone che parla di una ragazza, if I got it right. No, I don't think so, not this one. Non proprio. No, no. And it's talking about she. No, it's that. I mean, that's sort of like third person. Really, this one wasn't written so much from my perspective as just more you know, a theoretical perspective of the things that haunt you in your life and how you encounter them, and maybe in a more like everyday way instead of in like the spooky, ghosty sort of way. Si dice che è una canzone che parla non proprio di una ragazza, ma di una situazione, di una cosa che può succedere, delle paure che tu affronti nella vita, non sorry, I don't remember everything. Yeah, and it probably doesn't. It's hard to explain anyway. So dice che è difficile da spiegare in ogni caso. Sono le cose che ci spaventano, ma con cui dobbiamo convivere. It's frightening things that we have to live with. Yeah, anyway. but I mean, just sort of like imagining ghosts instead of these like spooky white sheets flying through the night, like a crowded street in a big city, and all okay. the ghosts are walking by you as you know, they're always around you. Ok, dice, non dobbiamo pensare che siano dei fantasmi con il classico lenzuolo che ci volano intorno, ma sono le persone che ti passano di fianco quando cammini in una strada affollata e che sono come dei fantasmi e che possono crearti appunto you don't know how to live with them, right? Yeah, basically I don't know how to explain my songs. Dice che il problema di base è che gli fa fatica a spiegare le sue canzoni, comunque la cosa migliore è ascoltarle, so e allora adesso ci ascoltiamo All the Ghosts Will Walk, sempre dal vivo qui su Blu Radio Veneto per Rockwave. Paul Hiraga, Don Pilot. All right, 2, 3, 4. Everybody here, everybody knows how to make the life seem so small. Get me out of this idiotic shirt. Let me live my days without reminders. She went out and she never came back. She went out and she didn't come back. Doo-doo-doo. All the ghosts will walk among the city crush. Into my face comes a head rush. Is there one among us who here can complete us? Every day they try to delete us. She went out and she never came back. She went out and she didn't come back. Radio Rock Wave, l'onda del rock. All the Ghosts Will Walk, questa canzone meravigliosa. Però ecco, devo dire che questo è il pezzo d'apertura dell'album ed è anche quello che forse colpisce di più al primo ascolto. Poi ascoltando l'album ci si rende conto che c'è un livello medio veramente molto elevato. I'm saying that at first listen, this song is the one that hits you more, and of course you put it on the first place, and it's... Yeah, it's funny though. I mean, this is why it's good to have a bandmate. Jeff, the only guy left in the band, he heard that song. Actually, that's a song that I played everything, and he only sang backups at the very last minute. And he heard that song, and he said, "That's the first track." And I said, "I wasn't planning on putting that in the first track. Maybe number three. I had different ideas for the first track, and he really, really insisted that that was the first one. So." You know, I guess I don't know everything, huh? Si dice che questa è una buona ragione per avere una band o dei collaboratori. Jeff, che è l'unico rimasto dei Down Pilot originali, quando sentì questa canzone gli disse: guarda, questa la devi mettere al primo posto in apertura dell'album, e lui non ci aveva proprio minimamente pensato di metterla al terzo posto, al track numero 3 o cosa del genere. E invece pare che io non sia stato l'unico ad avere questa impressione, appunto, che il pezzo colpisca molto, e ha detto questo è un buon motivo per avere delle persone intorno a te che ti possono aiutare. Ciò nonostante, Paul non ha bisogno di produttori esterni, perché questo disco l'ha prodotto interamente da solo. Nevertheless, you don't need a producer because you did it by yourself. I don't think you need anyone to tell you how the record must sound, because it sounds very good. Yeah, I mean, I think at the beginning I really, really benefited from having Tucker Martin help me on Leaving Not Arriving. He taught me a lot about how to think about recording songs, and also how to technically do it. I watched him while we were recording. Si è detto che all'inizio gli è stato molto utile avere una persona come Tucker Martin a dargli dei consigli su come produrre il disco, come doveva suonare, consigli appunto tecnici nell'album Leaving Not Arriving. Ma chiaramente, grazie anche appunto alla collaborazione con Tucker Martin, lui ha imparato molte cose. Tucker Martin è un personaggio notevole, che ha collaborato con non so, penso dozzine. I'm thinking about how many collaborations Tucker Martin made in his life. We're talking about Laura Veers and the Decemberists and Bill Frisell and R.E.M. he's worked with, and he's fra gli altri R.E.M., Bill Frisell, i Walkabouts. Of course, Walkabouts. Yeah. Che sono sempre di Seattle. Transmissionary Sticks. Sì, insomma, è uno che ha delle capacità tecniche notevoli. Io ho avuto la fortuna di sentire un disco non mixato e poi mixato da Tucker Martin, e da non musicista non pensavo che il missaggio potesse avere una tale importanza. Cioè, questo ve lo dico come I'm saying that I've heard the same record not mixed and after Tucker Martin mixing. Yeah. È veramente, vi assicuro, è un altro mondo, e qui si, appunto, si parla di persone magari non famosissime, ma con delle competenze straordinarie. Però ecco, l'ultimo disco, questo They Kind of Shine, senza collaborazioni esterne, comunque penso sia il disco che suona meglio fra quelli che ha fatto Paul, anche se l'avesse fatto, se lo ha fatto nel suo studio privato. Anyway, this last record sounds better than the other one, in my opinion. Ah, thank you. That's what I want to hear. Even if you did it by yourself. So, yeah. Lui mi ha detto che l'ha fatto nel suo studio personale, che penso sia una cosa molto diversa da andare fuori. Working in your own studio, makes it the record sound different compared to going somewhere, even maybe a better, technically speaking, place, but it's not your own? Yeah, it's a completely different process, because when you go into the studio, it's like you have to be ready to perform. You have to practice and get ready for studio time, because you're paying money. Yeah, si dice, quando vai su uno studio esterno, tu devi comunque essere pronto a fare il disco in quel momento, perché devi aver fatto le prove e tutto quanto, ma devi essere pronto a farlo in quel giorno, in quel momento, perché stai pagando. Yeah, so in my own studio, which I gradually built up over the interval between albums, I learned about sounds and the sounds that I wanted to present on the album for certain songs. And so it made it easier for me to express sonically what I wanted to do without having to explain it to somebody else or rely on them for their opinion. Si dice che lavorando nel suo studio gli permette di lavorare molto di più sul suono che vuole ottenere, senza bisogno di spiegare ad altri come lo vuole ottenere, e chiaramente anche con la possibilità di passare tutto il tempo che vuole. It's always a matter of time. You can stay on the same song as long as you want. Yeah, but this is the danger too. Si dice che trattenersi troppo a lungo su una canzone può essere pericoloso. So what happened is I had my label give me a deadline, and the deadline was kind of crazy, like really, really fast, so that I knew I couldn't spend too much time reworking everything. I had to do everything a little bit more spontaneously and just trust that it was going to be the right decision. So this is a good thing. Yeah. Si dice che alla fine è stata una buona cosa che la sua etichetta, la Tapit Records, gli abbia dato un limite temporale. Gli ha detto il disco deve essere pronto per questo giorno, e questo lo ha portato a fare le cose in maniera più spontanea e non stare troppo a pensarci sopra, perché in certi casi questo può diventare controproducente, anche perché stiamo parlando comunque di musica rock, che quindi ha bisogno di una certa spontaneità. We are talking about rock music, so spontaneity is very important, I think, for... Yeah, and especially when, say, on some of these songs I'm playing all the instruments myself, and I, you know, you can lose the feeling of a band sound, but I didn't want to lose that feeling, so I wanted to have it feel loose and not perfect, so I didn't spend all the time in Pro Tools editing everything clean and digitally perfect. I wanted to make it a little bit imperfect, like a tape machine. Si dice appunto che si potrebbe stare troppo tempo a lavorare sulla traccia con Pro Tools, il software che ormai usano tutti, e ti permette di ripulire tutto in maniera perfetta, mentre lasciarci qualche piccola imperfezione permette di ricreare la sensazione di una band, come quando it's more a live sound, come yeah. Quando si suona dal vivo, dove non tutto può essere perfetto, ma suona molto più reale. In effetti abbiamo molti esempi di dischi che suonano irreali, proprio plastificati, come un qualcosa di completamente artefatto. A questo proposito, prima stavamo ascoltando con Paul l'ultimo live dei Ram, che viene spesso trasmesso qui su Rockwave, che è un disco che i Ram hanno fatto in un concerto che non era un vero concerto, dove ci sono anche degli errori. Michael Stipe sbaglia anche le parole, però forse per questo è un disco live bellissimo. Splendid. The R.E.M. Live Records that we were listening. Oh, yeah, yeah. Michael Stipe makes some mistakes with the lyrics, and they left everything. Yeah, and that's brave for him to do, because I know, you know, at the beginning he controlled a lot of things and didn't want it to, you know, that's what you do as an artist. You only want to present what you want to present, but at a certain point you realize people think it's interesting, more interesting, to see you as a human and making mistakes. Sì, dice appunto che in effetti questo è molto bello, perché Michael Stipe voleva, è famoso per essere un po' un perfezionista, ma con gli anni si è reso conto che la gente preferisce vederti come un essere umano, che quindi può anche commettere degli errori, che ti rende una persona, magari ti fa venire, ti fa avvicinare al tuo pubblico. It makes you them closer to the audience, yeah. Because people think that they are just yeah. like me, yeah, make mistakes. Bene, adesso ci ascoltiamo un altro brano. Questo è tratto dall'album Like You Believe It del 2006, e il brano che ha scelto per noi Paul si intitola Antwerp, che è un Antwerp is a town in Belgium. In Belgium, right? Yeah. Perché hai scritto una canzone sulla città? Why did you write a song about a Belgian town? You like it? This is kind of a song that it was about. There are a lot of themes in my songs, unintentionally, I guess, just about searching for a place, and this was kind of trying to capture being kind of lost abroad and trying to find a place, trying to like being out of your country and really being in a searching sort si of dice place. Che non è una canzone che si riferisce particolarmente a Anversa, ma è proprio una canzone che parla del fatto di essere un po' perso in un posto che è completamente straniero, in cui tu fai un po' fatica a trovarti, ecco, a raccapezzarti, diremmo noi. Allora ci ascoltiamo questo brano sempre da Down Pilot. Rockway, l'onda del rock. SMS 346 23 20 033. Rockwave, l'onda del rock. Bene, questa era Antwerp, un brano che mi spiegava Paul non può praticamente essere suonato con una chitarra acustica, perché è proprio stato creato per essere suonato da una band, un tipo di groove, ha detto lui, che è una parola che in italiano francamente non saprei proprio tradurre, che la rende appunto un pezzo fatto apposta per essere suonato da una band. Però adesso ci suonerà un'altra canzone qui in studio con la sua Martin, una bellissima chitarra acustica, e poi ci farà un po' di... così di DJing, chiamiamolo così, nel senso che ha scelto alcuni brani da presentarci, sui quali ha delle cose interessanti da raccontarci. Prima di passare a questa canzone volevo salutare Gianluca di Radio RLS di Verona che ci sta ascoltando. Fa piacere sapere che ci sono dei colleghi che ci seguono, e magari spero che anche lui trasmetta i dischi di Paul nella sua emittente. E allora adesso il pezzo che ci ascoltiamo si intitola Regrade, è il brano che contiene la frase They Kind of Shine, che dà il titolo all'album, all'ultimo album appunto di Paul, di Down Pilot. E stavo parlando appunto con lui della difficoltà di tradurre questa immagine poetica bellissima in questa canzone. Lui parla delle stelle, che dice they kind of shine and they kind of don't shine, che in italiano francamente faccio molta fatica a dirvi cosa vuol dire. Significa che le stelle splendono o non splendono a seconda, it's the way you feel the stars, right? È il modo in cui tu le vedi, in quel modo tu le senti. In certi momenti le vedi splendere, sometimes they shine, sometimes they don't. Yeah, I mean, it's just sort of this idea of like I think that people like the fairy tales and they like the happy ending, and especially Americans like the smiley face on everything, and I tend to like to see things from both angles. And it's not necessarily a happy angle and a sad angle. It's just life, and it's full of intensity. And I think that presents a broader spectrum of emotion. Sì, dice che tutti amano, soprattutto gli americani amano il happy ending, il lieto fine e le facce splendenti, quindi appunto le stelle che splendono, mentre la vita è diversa. Lui ha voluto vederlo in un'altra maniera, appunto nel fatto che la vita ci porta a vedere le cose in maniera diversa. A volte le stelle splendono su di noi, a volte dobbiamo rassegnarci che la situazione è un po' diversa. Allora questa è The Regrade, Paul Hiraga, Down Pilot, sempre con noi dal vivo su Rockwave. Switch the stars on this broken night. The kind of shine and the kind of don't shine. Where's my mind? What was I thinking? They're all asleep on the fire line. Now she feels safer in the city. She cannot see the glaciers of the sea. And all the while she's left strung up on some kind of line for the living laundry. Press it diamond back into a stone. Shivers on the lake after it is thrown. Burn. town the morning after. Cross the street and swim in the parade. Now everything is moving backwards while you're finding your new legs on the regrade. Press the diamond back into a stone. Shivers on the lake after it is thrown through. Broken night, the kind of shine and the kind of don't shine. Rock Wave, l'onda del rock. Una canzone incantevole. Io qui dei dischi che Paul ha scelto così per parlarci un po' anche di altri musicisti, e uno di questi è dei Grant Lee Buffalo, si intitola Mighty Joe Moon, e questa canzone secondo me ricorda certe atmosfere, certi suoni di Grant Lee Phillips e della sua band. This song reminds me of Grant Lee Phillips and his band. There's something in this, I don't know, I can't tell you what exactly, you know, it's just a feeling. È una sensazione, non è che io possa dire ci sono delle note prese. È proprio il genere di espressione artistica che io trovo essere vicino a quello di Grant Lee Phillips. Questo è un grande complimento. This is a big compliment because you know it's a great musician. È un grandissimo Grant Lee Phillips. Ma la prima canzone che lui ha scelto è un classico, è un brano dei Birds. So you chose a song by Birds, but it's a song written by Bob Dylan. Yeah. Bob Dylan. Yeah. Can you make us Bob Dylan? Ci puoi fare Bob Dylan? Sorry? Can you sing like Bob Dylan a little bit? L'ha fatto prima. If your memory serves you well, you're gonna meet again. Wait. Yeah, I mean, everybody can do their Bob Dylan impersonation. The thing I wanted to explain about this song, I was looking through your collection on what to play, and one reason I wanted to play this song is because we were listening to R.E.M. earlier, and I have a story that relates to R.E.M. Sì, dice, ho scelto nella mia discografia, a casa mia, questo brano, perché prima a casa stavamo ascoltando appunto il live dei R.E.M., di cui vi parlavo prima, e lui ha una storia riguardo ai R.E.M. Yeah, we were covering this song kind of in this version, the Birds version of this Bob Dylan song, and we were doing sound check at a club in Seattle. Facevano una cover appunto di questa canzone che è This Wheels on Fire, e la facevano riprendendo un po' la versione dei Birds, questo in un club a Seattle. Yeah, and at the end of the sound check there was this one strange person in the club. I could only see his silhouette, and at the end of the song he was standing there clapping. C'era una persona nell'ombra, lui era soltanto la silhouette appunto, che alla fine del loro sound check appunto di questa canzone, senza che loro lo potessero riconoscere, stava applaudendo. And it was Peter Buck from R.E.M. Ed era proprio Peter Buck dei R.E.M., il grande chitarrista di R.E.M. che abita a Seattle. He lives in Seattle. Yeah, and actually his wife owned this club that we were playing at, but Crocodile. Yes, exactly. Sì, dice la moglie di Peter Buck è la proprietaria di questo club a Seattle, che è il Crocodile, un posto famosissimo, I think that in that club history happened. Oh, completely, yeah. Dice che la storia veramente è passata in questo club, tutte le band che hanno fatto il grunge sono passate per questo club straordinario. Also Down Pilot have been there. Yeah, we played there quite a bit, and and to play sound check for Peter Buck was a big thrill for me, because R.E.M. was a big influence. Si dice che il fatto di suonare il sound check e poi scoprire che Peter Buck li stava ascoltando è stata una grande emozione, perché i R.E.M. sono una sua grande influenza, un gruppo che lo ha influenzato moltissimo. Allora ci ascoltiamo This Wheels on Fire nella versione dei Birds. Rockway, l'onda del rock. Serves you well, then you remember you're the one who call on them to call on him to get you your favors done. But after every plan had failed, there was nothing more to tell. You know that we shall meet. If your memory serves you well. Rock Wave, l'onda del rock. Sono le 23:17 minuti e 24 secondi e siamo sempre dal vivo su Blu Radio Veneto qui per Rock Wave con Paul Hiraga, o Down Pilot come vogliamo chiamarlo. Abbiamo appena ascoltato questa bellissima versione di This Wheels on Fire fatta dai Birth, un brano che attraversa la storia del rock. Adesso passiamo ad un disco meno famoso, però altrettanto bello, un disco che io amo moltissimo, e quando ho visto che Paul lo ha scelto fra, diciamo, parecchi a disposizione, ho capito che c'è veramente una comunione di gusti fra me e lui, perché è un disco che io adoro, ed è il secondo album dei Grant Lee Buffalo, che si intitola Mighty Joe Moon. E lui mi diceva che appena suonato con Grant Lee Phillips, che della band era il leader. So what's the story behind this record? I guess, you know, not a particular story, but just I got a chance to meet Paul Kimball from Grant Lee Buffalo. He moved to Seattle several years ago and we had a friend in common. Si dice che non c'è una storia particolare. Lui ha avuto modo di conoscere personalmente Paul Kimball, che era parte appunto di questa band, quando lui e Paul era traslocato a Seattle e avevano un amico in comune. Yeah, and she introduced the two of us, and I ended up playing a little bit of music with Paul. He hadn't played music live in quite a long time, and so I like to think that I helped him kind of break out of his period of dormancy a little bit. Si dice che era una ragazza, questa amica comune, e lui, appunto, avendo conosciuto Paul, lo ha portato a suonare dal vivo di nuovo dopo un periodo di latenza, diciamo, di quiete, un periodo in cui si era un po' lasciato andare. E io vidi dal vivo Grant Lee Buffalo un paio di volte e posso assicurarvi che Paul Kimball era un musicista straordinario. I've seen him playing live a couple of times, and Paul Kimball was really strong musician. Yeah, he's a great musician and he's a really funny, crazy character, and I love him to death. And I actually just played a show a few weeks ago with Grant Lee Phillips before I came to Europe, and Paul Kimball came to the show, and everybody's talking again, and there is talk of a possible reunion tour. Wow. Ha detto che Paul Kimball, oltre a essere un grande musicista, è una persona divertentissima, una persona con cui si sta molto bene insieme, e prima di venire in Europa, perché Paul sta facendo un tour che è cominciato qui in Italia ma poi proseguirà in Germania per un intero mese di concerti, ha suonato una sera appunto con Grant Lee Phillips, che dei Grant Lee Buffalo era il leader, e Paul si è unito a loro e si sono messi a parlare, e sembra che ci sia una piccola speranza che ritornino insieme. Questa per me è una notizia, this is shocking news for me. Yeah, well it's not written in stone yet, but yeah, we're hoping. There's the beginnings are, they're talking about it. Si dice che naturalmente non è ancora niente di deciso, però hanno parlato e c'è una possibilità, e appunto vi ho detto, ho visto un paio di volte dal vivo questa band ed erano un assoluto, uno dei migliori band che io abbia visto suonare dal vivo. Ho la fortuna di poter, diciamo, basarmi su una selezione abbastanza ampia di musicisti che ho visto nel corso degli anni. I Grant Lee Buffalo dal vivo erano una forza della natura, erano qualcosa di straordinario, per cui speriamo che questa cosa vada in porto. E adesso ci ascoltiamo appunto da Mighty Joe Moon questo brano intitolato Mockingbirds. Devastation at last, finally we meet. After all of these years out here in the street, I had a feeling you would make yourself known. You came along just to claim your place on the throne. Now I've been overthrown, overthrown. And I thought if I drew the right lines, but these mocking birds won't let me shine. is left open wide. You brought me into your heart and swallowed my pride. I had a feeling you were hiding your thoughts. I'm reading a note to myself, I nearly forgot. Now I'm over all, I'm over all. Blu Radio. Allora, abbiamo ascoltato Mockingbirds dai Grantly Buffalo, è sempre un piacere riascoltare qualcosa da questo disco straordinario che si intitola Mighty Joe Moon. E la prossima band che ha scelto Paul sono gli American Music Club, altro grandissimo gruppo degli anni 80, che però dopo 10 anni si è riunito, ha fatto 2 dischi molto belli negli ultimi anni, l'ultimo mi pare sia del 2008, e il cantante si chiama Mark Heitzel e lui ha così qualche cosa da dirci al riguardo. About Mark Heitzel. Oh, my story about the American Music Club. So they were playing, I was living in Minneapolis at the time, and they came to play a small bar for the tour supporting this album Everclear. Sì, lui viveva a Minneapolis in quel periodo e gli American Music Club sono arrivati in città per il tour che era appunto di promozione dell'album Everclear. So they're on stage and they play a song and Mark Heitzel's strumming away hard at the acoustic guitar and he breaks a string. Sì, erano sul palco che suonavano e Mark Heitzel suonava molto energicamente la sua chitarra acustica e ha rotto una corda della chitarra. So he says, oh man, I broke a string. Are there any musicians in the audience? And you look around the audience and there's members of Soul Asylum, members of the Jayhawks, members of Run Westy Run, all in the audience and nobody's moving. Si dice, c'è qualche, aveva bisogno di aiuto per cambiare la corda della chitarra, ha detto c'è qualche musicista fra il pubblico, e c'erano membri dei Soul Asylum, dei J-Hawks, Run Westy Run. Run Westy Run, parliamo di band che comunque sono arrivate nelle top 10 della classifica americana e nessuno di questi si è mosso. Yeah, so I said, I, you know, the guy, he needs a string change, so I walk up to the stage and I go, yeah, I can change your string. Allora ha detto, a questo punto, dopo che questi personaggi importanti non si erano mossi, lui è salito sul palco, ha detto, ok, io ti posso cambiare la corda della chitarra. So he plays another song and he breaks another string, and then of course then he looks at me and he goes, can you change another string? Ha suonato un'altra canzone e ha rotto un'altra corda. A quel punto è andato direttamente a rivolgersi a Paul e gli ha chiesto di cambiare un'altra corda. He continued to break strings. He broke 5 out of the 6 strings on his guitar that night, and I changed every one of them. Ha detto che alla fine è arrivato a rompere 5 corde su 6, che è una cosa che io non ho mai visto in vita mia, e lui e Paul le ha cambiate tutte quante. I never seen anybody broke 5 strings. Yeah, neither have I. I mean, you know. Ah, ok, non è una cosa così comune, perché nemmeno a Paul è mai capitato di vedere una cosa del genere, perché di solito quella che si rompe è il micantino. Usually it's the smaller one, I don't know in English. Yeah. But to broke the other ones. He broke all except the bottom string. Si, ha detto le ha rotte tutte tranne quella in basso, che è quella più, yeah, più robusta, diciamo. E not really easy to do. Not easy to do. Maybe he hadn't changed those strings in a year. Si è detto probabilmente era un anno che non cambiava le corde. Comunque questo brano è dall'album Everclear degli American Music Club, si intitola Why Won't You Stay. Rock Wave. L'onda del rock. This night fulfill all the promises and bury us in peace. Will it leave us free and forgetful, or at least bring some sleep? Your eyes don't catch the little things as they narrow on your fall. I'm checking your pulse, you're so quiet. I'm kissing you, but you don't feel it. Why you do this to me? Showing me that all I'm good for is to watch you sleep. As lifeless as an angel, she was the most beautiful cloud that ever passed before the face of a girl. Seems like nothing's too good for this life. Yes, some things are too good for this world. And our names and our faces, well, they're just a spare change in memory of us all. Kept dropping spare. Why won't you stay? Why won't you stay? Why won't you stay? Why won't you stay? Hey. Six 67 San Francisco. They were all. Siamo di nuovo dal vivo. Stavamo parlando con Paul, mi ha fatto l'elenco delle città in cui ha vissuto. Questa è una cosa tipicamente americana, ha abitato a San Francisco, dove ha anche rincontrato Mark Heitzel, che andava in bicicletta, si è fatto offrire la birra che Mark Heitzel gli aveva offerto qualche anno prima. Gli aveva detto appunto che avrebbe dovuto offrirgli in cambio del cambio di corde della chitarra. Adesso andiamo con un'altra canzone, e questa è una scelta un po' più particolare, perché è un musicista inglese, forse un po' più lontano dal suono dei Down Pilot, anche se non ha bisogno di molte presentazioni, visto che stiamo parlando di David Bowie. This is maybe a little bit more surprising, because it's English and it sounds different from your music. Well, that's kind of why I chose it. I don't want it all to really be easy, and you know that we're always, you know, musicians are influenced by artists who don't seem so apparent by listening to you. Si dice, è proprio per quello che ha lasciato, non voleva essere banale, e soprattutto i musicisti spesso sono influenzati da altri musicisti che suonano molto diversi da loro, è un po' una cosa inaspettata. Forse David Bowie può essere, come nel mio caso, era un amore di gioventù. Was one of your favorite musicians when you were young? Just like me, or he was. I mean, he was definitely somebody that I listened to. He wasn't a favorite, like maybe the Beatles was, you know, really a favorite. But the reason why I choose this song is, I think for many musicians, there's a moment, a performance maybe that you see on television, that makes you decide that you want to be a performing musician. Bowie era un musicista che lui ascoltava, ma non era il suo preferito, come potevano essere ad esempio i Beatles. Però nella vita di ogni musicista c'è un momento cruciale in cui vedi qualcuno magari in televisione suonare e pensi fra te e te che vuoi essere come lui, vuoi fare quello che lui sta facendo. So you saw David Bowie on TV. I saw a performance of this song on TV, and I lost my mind. I just felt like, okay, now I have to be a musician. This is a great story. Questa è una bella storia. Lui ha visto proprio David Bowie cantare questa canzone dal vivo in televisione, e per lui è stato un momento che veramente gli ha cambiato la testa. Diciamo, ha pensato fra sé. Io voglio essere un musicista, e la canzone era Stay. Yeah, and I had the wonderful opportunity many years later. There was a David Bowie night where all these different artists in Minneapolis, where I was living, played songs by David Bowie, and I had a chance to perform this, and it was like a dream. Ha detto che anni dopo a Minneapolis c'era una serata, un omaggio a David Bowie, in cui tutti quanti musicisti locali suonavano canzoni di Bowie, e lui ha avuto l'occasione di cantare questo brano, e per lui è stato veramente un sogno. La canzone era Stay, che fa parte dell'album un capolavoro assoluto, che è Station to Station del 1976, e che adesso ci ascoltiamo. Rock Wave, l'onda del rock. We'll be right back. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave, l'onda del rock. Dunque, abbiamo ascoltato questa Stay da Station to Station. E, devo dire che con Paul abbiamo una, come dire, una comunanza di gusti quasi imbarazzante. Abbiamo tantissimi musicisti che amiamo in comune, e riguardo a questo disco stiamo condividendo appunto delle impressioni sul fatto che è un album che non può essere ricollegato a nessun genere, è un disco che fa quasi storia a sé stante, è anche diverso dagli altri dischi di David Bowie, ed è un album che non è rock, non è soul, non è jazz, non è pop, però riesce a mettere insieme tutte queste cose, oltretutto in sole 6 canzoni, un disco veramente epocale. E questa canzone in particolare, appunto, lui l'aveva vista suonare dal vivo in televisione, è un pezzo che Bowie spesso riprende nei suoi concerti, anche l'ultimo tour ormai di qualche anno fa, ma diciamo anche in anni recenti, perché è un brano che ha un tiro pazzesco, come si dice in gergo musicale. E sicuramente Bowie è un'ispirazione per i musicisti, per molte ragioni, anche per la sua capacità di cambiare molti stili restando sempre se stesso. I think that David Bowie is a very good inspiration for musicians because he made many different styles, many different kind of music, but you can always recognize that it's David Bowie. Yeah. I think this is the best result a musician can get in his life. Yeah, I mean, at a certain point, it's not funk or punk or new wave or post wave or whatever. It's just Bowie music, and that's something to aspire to, is being a musician who makes your own music like that. Si dice appunto che è la massima, il punto d'arrivo di un musicista è il fatto che puoi suonare dal punk, jazz o new wave, qualsiasi cosa, però alla fine non esce dai generi, è della musica di David Bowie. Indubbiamente questo è un risultato straordinario. Devo dire che soprattutto con l'ultimo disco, questo The Kind of Shine, anche Paul si è creato un suo suono che ormai è veramente molto, molto caratteristico, ed è il suo suono. I think that you get this kind of result with The Kind of Shine because it's a record that sounds really like you. It's in the other records, it's much easier to recognize the influences from, for example, R.E.M. or Guadalcanal Diaries. Mm-hmm. Say, prima stavo parlando appunto di band che potevano assomigliare come i R.E.M., Guadalcanal Diaries, ma nell'ultimo disco c'è un perfetto equilibrio, secondo me, fra suono acustico ed elettrico. It's a record that is really balanced between electric and acoustic. It's in the middle. You can't tell. Where it is exactly, and it's not easy to reach this goal. Per me non è facile raggiungere questo tipo di equilibrio, perché quando si suona acustici si tende a essere un po' più tranquilli e un po' più rilassati, e quando si suona elettrici la tendenza è magari di spingere un po' più sull'acceleratore. When you sound acoustic, sometimes you go, I'm not talking about you, musicians go a little bit mellow, mm-hmm. and when you play electric you want to show off that you are playing loud, and it's quite different, it's quite hard to be in the middle. I think that J-Hawks were a band that can do that. Yeah. I J-Hawks erano un buon esempio di questo equilibrio. You like them, I think. Yeah. I mean, I know those guys because I lived in Minneapolis. And ah, ok, li conosce personalmente, yeah. Perché abitava a Minneapolis, che è la loro città. Allora, da The Kind of Shine, adesso Paul ci suonerà una canzone che si intitola Flicker. Yeah, okay, Flicker. Ready? Yeah. Okay, let's go. Something in the light is wrong. It's electric in the sun. They poured on us like all the late night alcohol. Fucked up again on the folder all. When the light starts, when the light starts, the flicker on your back. It can look like a returning, but there is no turning back. It's buried in the snow. The snow. Questa era Flicker, un'altra bellissima canzone, veramente una canzone evocativa. E, volevo parlare ancora un attimo con Paul riguardo a questo album The Kind of Shine, che secondo me, oltre ad avere una qualità media delle composizioni veramente altissima, l'ho messo nei miei 10 preferiti del 2009, anche una caratteristica che si è un po' persa, ne stavo parlando prima con lui, è un disco che ha una durata da vinile, dura circa 40 minuti e scorre via come una sorsata d'acqua fresca, letteralmente non stanca, non ha tutti quei riempitivi che molti musicisti hanno messo, perché in un CD possono stare 70 minuti di musica e quindi si sentono obbligati a farlo. I'm talking about the fact that in this record there are only 10 songs, it's 40 minutes straight, there are no fillers in it, and it's like drinking a fresh glass of water. It's all right, refreshing. Man, you're hired as my publicist. That's good. Ok, sono assunto come pubblicitario. I mean that, volevo sapere se lui è uno che scrive poche canzoni o ne scarta tante, fa una forte selezione. Do you write a lot of songs and then select them, or you just focus on only a few ideas and work only on them? I'd say I probably am not the most prolific songwriter. I don't pump out a bunch of songs and discard many of them. I tend to write a batch of songs for an album. There might be one or two per album that don't make it, but sometimes they make it later. Sì, è uno che non è molto prolifico, scrive solo quando ha una buona idea, e normalmente da un album, dalle canzoni che scrive per un album, ne tiene fuori una o due che non sono adatte, però a volte le ha anche recuperate dal disco successivo. E stiamo parlando di un musicista che fa più o meno un disco ogni tre anni. You make a record every 3 years, more or less. Yeah, two or three. Yeah, this, I think the lapse between the last one and this one was a little bit long. But quindi la media è di 5 canzoni all'anno. So the average is 5 songs per year. Yeah, that's not bad, I guess. Kind of lazy. hey, you know, still have a day job. Get off my case, man. E c'è un prima di andare con la prossima canzone, c'è un'altra cosa di cui volevo parlare con Paul. Voi non lo vedete alla radio, chiaramente. Lui ha dei lineamenti particolari perché è in parte giapponese e sua madre. Your mother was coming from I don't remember exactly. Well, I mean, she was born in the U.S., but of course, ancestry from the U.S. can be any, you know, soup of mixtures. She has French and English and Irish and German ancestors. Sì, sua madre aveva degli antenati francesi, inglesi, irlandesi e tedeschi. Suo padre, come dice anche il cognome Hiraga, era un giapponese, però nato negli Stati Uniti, per cui Paul è un esempio vivente della mescolanza che fa la bellezza, diciamo, anche degli Stati Uniti, ed è un po' una persona che può essere avvicinata per queste caratteristiche all'attuale presidente. So you're kind of similar to President Obama. It's you are a symbol of what the USA are in 2010. So, allora volevo chiedergli cosa pensa appunto del fatto che una persona che ha delle cose così in comune con lui sia il nuovo presidente. What do you think of the election of Obama as a new president, as a people that, as a person that I think you feel connected as you in a way? Yeah, I mean, Obama's not just from the point of view of him being a mixed race person, but you know, we were all hopeful when he was elected just to have somebody who wasn't from the old white man club. Si dice non è tanto una questione della mescolanza di razze che rappresenta, ma il fatto che moltissimi speravano nell'elezione di una persona che non facesse parte del club dei vecchi uomini bianchi, anche se Bush al momento della sua elezione Bush wasn't old, but yeah, but he came from the blue bloods, you know, like which was what we say old money families, and so he may not be old in years, but he's practically a statue. Si dice che alla fin fine Bush in effetti non era anziano quando è stato eletto, però veniva da un ambiente, da una situazione sociale che loro chiamano blue blood, cioè sangue blu, anche se in America il sangue blu non è dato dalla nobiltà ma dalla ricchezza della famiglia, appunto veniva da una famiglia molto molto ricca, che quindi questo lo portava a pensare in un certo modo molto molto statico, come una statua. Sappiamo che se fossero solo i musicisti a votare, Obama avrebbe preso, penso, il 99% dei voti. If only musicians were to vote, Obama was elected with 99.99999%. Yeah, per cui si sfonda una porta aperta. Abbiamo solo 5 minuti. Io ho una richiesta che ho fatto a Paul. We only have 5 minutes left. Okay. And perfect. I have a request, as you know, che è un brano, era il pezzo di apertura dell'album Living Not Arriving. È una canzone bellissima anche questa, che all'epoca ho trasmesso parecchio, è un disco del 2006. La canzone si intitola True, and True vuol dire verità, and it's a song about it's a song about hearing news, hearing news that might not be the easiest to. Sì, dice che è una canzone riguardo a ricevere delle notizie che possono anche non essere particolarmente buone. And the first line said, I heard the most dangerous thing about you last night. Ho sentito le cose più pericolose riguardo a te l'altra notte. And Does it refer to someone specific? I'm not going to explain this one. I generally don't. You've made me explain songs more than I usually do tonight, so I'm going to stand my ground and say you can write your own story on this one. Si dice che preferisce che ognuno si faccia la sua idea della canzone, non vuole spiegarla eccessivamente, forse c'è dietro qualche cosa di personale. Comunque la canzone è bellissima, si intitola True ed è dal vivo Paul Hiraga qui su Blu Radio Veneto per Rock Wave. Buon ascolto. I heard the most dangerous thing about you last night. All the birds in the square landed all about you last night. And the streetlight went dead. You went out of your head. Is it all true? What I heard about you're sitting there still outside, stone dry in the rain. And the businessman dropped his case when he walked by you again. For 17 days, center of the maze. Is it all true? What I heard about you. When the world said today, when the paper blows away, when the black hits your toast, enemy. Bene, è arrivata mezzanotte, fra poco la nostra radio si trasformerà in una zucca come quella di Cenerentola. Dobbiamo chiudere questo appuntamento. Tutto quello che posso dire, cari ascoltatori, è che mi auguro che voi abbiate avuto così, stando davanti ai vostri altoparlanti, alla vostra radio, un'emozione paragonabile a quella che abbiamo vissuto noi qui in studio, per avere il piacere e l'onore di ospitare un musicista di questo livello straordinario come Paul. Paul. E come sapete la nostra radio punta molto su questo, cercheremo di avere sempre più musica dal vivo, perché questa è la vera musica, è la vera emozione che non può essere riprodotta per dei dischi, per quanto belli, per quanto ben fatti, la presenza e l'emozione che dà la musica dal vivo è un'altra cosa. Quindi again, thank you very much, Paul, for being here, because the feeling, the emotion that we are when a musician is here is completely different. It's another world, and it's big pleasure for us. No, pleasure for me as well. Thanks for having me. It's great to be here. You're always welcome. Sei sempre benvenuto, and I wish you will be back soon. Okay. Speriamo che ci sia un'altra occasione per ospitarlo nuovamente nella nostra emittente. Vi ricordo Blu Radio Veneto, Rockwave, tutte le sere dalle 22:30, questa sera straordinariamente dalle 22 alle 24, sulle nostre frequenze la buona musica non manca mai. Vi lascio con l'ultimo brano, che l'abbiamo sentito prima suonato dal vivo in versione semplice, acustica, ma sempre emozionante. Adesso lo ascoltiamo, tratto dall'album They Kind of Shine. Si tratta di All the Ghosts Will Walk, Down Pilot, Poli Raga. Buonanotte a tutti, grazie per l'ascolto e ci sentiamo presto da Stefano Dainese e da Poli Raga. Molto grazie, thank you. Rock Wave, l'onda del rock. Everybody here, everybody knows how to make the life seem so small. Get me out of this idiotic shirt. Let me live my days without reminders.